Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Mentre l'avete sentito, sta procedendo a Calais lo smantellamento della struttura del campo abusivo dei migranti. È in Grecia che è esplosa la rabbia contro l'Europa. Decine di migranti hanno attaccato e dato fuoco ad una struttura europea che gestisce le domande di asilo sull'isola greca di Lesbo. La rabbia è esplosa durante una protesta per i ritardi con cui vengono gestite le domande di asilo. La polizia ha detto che circa 70 persone, in maggioranza pakistani e bengalesi, hanno prima lanciato pietre e poi hanno appiccato il fuoco. 22 migranti sono stati arrestati. Queste intanto sono ore di attesa non solo per l'Italia, altri 6 paesi attendono le annotazioni di Bruxelles sulle manovre di bilancio, ma le tensioni più forti sono indubbiamente con Roma. Arriverà tra oggi e domani la lettera di richiamo sulla manovra firmata dalla Commissione europea. In the budget I can reiterate what I already emailed you this morning, that in fact we're analyzing the draft. Stiamo analizzando le bozze dei bilanci che abbiamo ricevuto dagli stati dell'Eurozona, così la sentite la portavoce per gli affari economici e finanziari Annika Breithard. Durante questa fase ha detto seccamente: non faremo commenti sul loro contenuto. È questione ormai di poco, oggi o al massimo domani, e la tanto attesa lettera con i rilievi di Bruxelles arriverà sul tavolo di Palazzo Chigi. In realtà si tratta di una richiesta di chiarimento sulla bozza di bilancio, come per Belgio, Spagna, Portogallo, Estonia, forse Francia e Olanda. Per l'Italia la situazione però è più delicata, visto il braccio di ferro degli ultimi giorni. L'Europa era pronta a dire sì a un deficit PIL al 2,2% rispetto all'1,8% promesso. Matteo Renzi nella manovra ha inserito invece un 2,3%, spiegando che le risorse in più servono per le emergenze, terremoto, ricostruzione, ma anche prevenzione e migranti. Dalla Commissione fanno sapere che rifugiati e sisma non sono il problema e che a non convincere sono le misure una tantum, come voluntary disclosure e lotta all'evasione, pari a circa il 50% delle coperture. Roma però alza il muro: la manovra non si cambia, dice Renzi, che insiste sull'immigrazione. Al governo europeo diamo 20 miliardi e ne prendiamo 12. Possiamo far sì che quelli che prendono i soldi prendano anche i migranti? Chiede il Premier. In ogni caso, non è ancora il momento di una bocciatura da Bruxelles, che potrebbe arrivare dopo Natale o comunque dopo il referendum del 4 dicembre. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alle prese con le tensioni con Bruxelles anche Londra, mentre si vocifera sempre più della possibilità che la Commissione voglia pretendere che, un po' anche per smacco, le trattative per la Brexit avvengano in lingua francese anziché inglese, per rimarcare l'uscita dell'Unione dall'Unione di Londra. La Premier Theresa May si confronta oggi con i leader delle 4 nazioni che compongono il Regno Unito: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. È la Scozia a guidare la carica delle entità regionali emerse dalla devolution, chiedendo sul Financial Times un'uscita flessibile per Edimburgo. E un'altra realtà locale pesa sull'Europa, quella della Vallonia, regione del Belgio, che rischia di far saltare a questo punto definitivamente l'accordo col Canada. La ratifica dell'accordo commerciale con il Canada continua a essere clamorosamente bloccata dalla Vallonia. Si sta trattando in queste ore per cercare di salvare il salvabile. Il negoziato porta in particolare sulla Corte di arbitrato, che dovrebbe risolvere le controversie tra imprese e stati. I valloni vogliono rassicurazioni sul suo funzionamento. Temono la dominazione delle multinazionali. Intanto si avvicina rapidamente il vertice del 27 ottobre, nel quale l'Unione Europea e il Canada dovrebbero firmare l'intesa di libero scambio. Questa sera sapremo se l'incontro di giovedì verrà effettivamente confermato. Stando alle dichiarazioni della Vallonia, la regione non sarebbe comunque in grado di dare il suo benestare entro oggi e suggerisce di rinviare il vertice del 27 ottobre. La vicenda sta imbarazzando non poco il governo belga e la stessa Unione Europea, nella quale tutti si sono detti d'accordo sul testo del trattato. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Questa sera ne sapremo di più. Con l'Europa per il momento ci fermiamo qui. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Come sempre vi ricordo, l'Europa però vi aspetta con Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.